Letture di Radio 24. L'onorevole Gabriella Carlucci e altri 18 deputati hanno proposto una commissione parlamentare d'inchiesta sui manuali di storia utilizzati dalle scuole perché ritenuti troppo partigiani. Una proposta di questo tipo, osserva Giovanni Belardelli sul Corriere della Sera, lascia interdetti. Una critica è certamente necessaria, ma non deve trasformarsi in una bonifica censoria. La notizia che l'onorevole Gabriella Carlucci e altri 18 deputati del PDL hanno chiesto una commissione parlamentare d'inchiesta sui manuali di storia non può che lasciare interdetti. In primo luogo perché sembra, né più né meno, la replica dell'iniziativa presa nel 2000 dall'allora presidente della Regione Lazio, Storace, che sollevò un vespaio di polemiche, ma venne rapidamente abbandonata. In secondo luogo, una proposta del genere evoca intenzioni censorie, nonostante, come dire, una certa ingenua inconsapevolezza da parte dei proponenti circa i termini della questione. Essi vorrebbero sostituire ai libri faziosi quelli ispirati a una visione oggettiva, che però non si sa bene cosa sia. Anzi, nell'ambito della storia e in genere delle scienze umane, semplicemente non esiste. Insomma, ammesso e non concesso che una simile bonifica dei libri di testo all'insegna dell'imparzialità sia attuabile, porterebbe inevitabilmente a replicare l'esperienza del libro di Stato introdotto in Italia dal fascismo. Dunque è solo un'invenzione che, come lamentano i promotori della commissione d'inchiesta, per gli anni più recenti i manuali di storia siano a volte molto critici nei confronti di Berlusconi e mostrino simpatia per le esperienze di centrosinistra? Probabilmente no, fatte salve, come è ovvio, le differenze tra i singoli testi. Del resto vari studiosi hanno riconosciuto da tempo che i libri di storia, non solo quelli scolastici, spesso sono ispirati a letture partigiane, molto condizionate dalle opinioni politiche degli autori. Opinioni che sono prevalentemente di sinistra per varie ragioni, che però nelle scuole si riducono soprattutto a una: al fatto che da molti anni la sinistra è sovrarappresentata tra gli insegnanti, cui spetta scegliere il libro di testo. Fino a qualche decennio fa non era così, e a criticare i libri scolastici perché ispirati a una visione troppo conservatrice erano invece studiosi e intellettuali di sinistra. Di per sé non è dunque scandaloso che esponenti del centro-sinistra critichino questo o quel testo perché vi riscontrano, che so, una raffigurazione del berlusconismo troppo debitrice degli articoli di Marco Travaglio. Ma andrebbe fatto allora in modo serio, certamente senza auspicare la costituzione di improbabili commissioni di inchiesta che evocano immediatamente l'immagine della censura. Avete ascoltato la lettura dell'articolo La commissione sui libri di testo, se la critica diventa bonifica, di Giovanni Belardelli, dal Corriere della Sera di mercoledì 13 aprile. Letture di Radio 24. Quattro date nere ci accomunano ai migranti di oggi sulle nostre coste. Sono quelle del 1891, del 1898, del 1906 e del 1927, in cui affondarono rispettivamente l'Utopia, il Burgogne, il Sirio e il Principessa Mafalda. Ma sono anche i racconti di quei naufraghi italiani che dopo oltre un secolo ricordano quelli odierni dei migranti nordafricani. La sera del 4 agosto 1906 il mare depositò sulla spiaggia di Cartagena in Spagna un lattante tutto fasciato. Era vivo, miracolosamente vivo. Dissero i parrocchiani della vicina chiesa, recitando un pater a vera gloria, che solo il buon Dio poteva aver salvato quella creatura. Lo dissero mentre allineavano sulla sabbia a decine e decine i corpi restituiti dalle onde dei poveretti annegati nel tragico naufragio del vapore Sirio, partito due giorni prima da Genova e diretto a Gibilterra, per poi affrontare l'Atlantico verso il Brasile. Furono 292 i morti, secondo il Lloyd, che voleva ridimensionare il più possibile la catastrofe, dati i torti degli armatori e i torti dell'equipaggio, partito senza carte nautiche e piombato a tutta velocità sugli scogli di Capo Palos. Ma stime più serie dissero almeno 400, forse 500. E mai come oggi, dopo la catastrofe della nave affondata sulla rotta per Lampedusa, Vale la pena di rileggere le cronache della tragedia sul Corriere di allora. Il primo senso di stupore degenerò in un batter d'occhio, in un folle panico, producendo una confusione indescrivibile. I passeggeri, correndo all'impazzata e gridando disperatamente, rendevano impossibile l'opera di salvataggio. A uno degli alberi del Sirio si erano avvinghiati 6 ragazzi, le cui madri si trovavano troppo lontano per poterli soccorrere. Le grida delle madri erano strazianti. Le ondate staccarono ad uno quei ragazzi dall'albero, gettandoli in mare sotto gli sguardi delle povere madri impotenti a salvare le loro creature. Quello del Sirio fu solo uno dei tanti naufragi della nostra emigrazione. Bisognerebbe ricordarle nelle scuole, quelle tragedie, almeno le più spaventose, come l'affondamento dell'Utopia. Pensate che nome per un vapore che portava i nostri nonni verso il sogno. Un bastimento inglese che, partito da Trieste e fatta tappa a Napoli, portava 3 passeggeri di prima classe, 3 clandestini, 59 membri dell'equipaggio e 813 emigranti, quasi tutti italiani, che la sera del 17 marzo 1891, con un tempo pessimo e visibilità ridotte, davanti al porto di Gibilterra, sbagliò manovra, andò a sbattere contro il rostro di una corazzata alla fonda e colò a picco in pochi minuti, inghiottendo 576 poveretti. Poco meno, 549, furono le vittime in gran parte italiane. Erano molti quelli che preferivano raggiungere in treno Le Havre per accorciare il viaggio in mare. Del Bourgogne, un piroscafo francese che affondò il 4 luglio 1898 dopo una collisione con il veliero inglese Cromartyshire al largo della Nuova Scozia. Un'ecatombe che fermò il respiro a tutti, con la pubblicazione sulla prima pagina del Petit Journal di Parigi di un'agghiacciante illustrazione dei corpi buttati sulla spiaggia. E come dimenticare il principessa Mafalda? Era stata a lungo la nave ammiraglia della flotta commerciale italiana, ma il giorno in cui salpò per il suo ultimo viaggio fatale, l'11 ottobre 1927, era così vecchia e sgangherata che al ritorno avrebbe dovuto essere smantellata. Per 8 volte i motori si fermarono nel Mediterraneo, per 8 volte li fecero ripartire. Il segnale era inequivocabile. Fermatevi. Ma che? Il capitano Simone Gulli, di cui resta una foto con Pirandello, s'avventurò nell'oceano. Si fermò per riparazioni a Dakar e poi anche a São Vicente di Capo Verde. Ma la vecchia Tinozza era ormai alla fine. Avrebbe raccontato mezzo secolo dopo al Clarin la signora Flora Forciniti, che con mamma e 2 fratelli doveva raggiungere a Buenos Aires il padre e i fratelli, che la Mafalda navigava così storta che la mattina non potevamo appoggiare la tazza con il caffè latte perché si sarebbe rovesciata, finché al largo del Brasile perse l'asse di un'elica e l'acqua si lanciò all'assalto come un nemico avido di preda. L'orchestra di bordo, che stava suonando un Black Bottom, smise di colpo. Il violinista posò il violino, il trombettiere la tromba, e scoppiò il panico. Quando arrivarono in soccorso le navi richiamate dall'SOS, centinaia di naufraghi tentavano di restare a galla attaccati a salvagenti, tavole, botti, casse. Le acque erano infestate di squali. Un marinaio, poco più che ragazzino, cedette il suo salvagente a un vecchio che implorava aiuto e si buttò in acqua con lui per trascinarlo alla scialuppa più vicina. Un pescecane l'attaccò. Lui lanciò un urlo straziante. Si chiamava Anacleto Bernardi. Era figlio di immigrati italiani. Il duce, deciso ad abolire le cattive notizie, ordinò di esaltare l'eroismo del comandante e minimizzare la tragedia. Il Clarin avrebbe contato 657 morti. Il Corriere, sotto il bastone del regime, titolò «Poche decine di vittime». La linea fu dettata dal Minkul Pop. Delle cause del sinistro poco si sa. Si parla di scogli, si parla di un'esplosione. Comunque, si può asserirlo con riverente amore per la nostra ardita e potente marina mercantile, la sventura non è da attribuirsi né a imperizia né a negligenza dell'equipaggio, ma a una tremenda fatalità. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Quando i naufraghi eravamo noi, pubblicato dal Corriere della Sera di venerdì 8 aprile, a firma di Gian Antonio Stelli.